Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La Belafonte era un cacciatorpediniere della Seconda Guerra Mondiale comprato dalla Marina Americana per $900,000. Questo è il mio mentore, Lord Mandrake. È morto ormai. La sauna è stata progettata da un ingegnere del programma spaziale cinese e abbiamo una massaggiatrice svedese nello staff. Qui è dove elaboriamo i nostri progetti scientifici, gli esperimenti e così via. Questa è la cucina che contiene forse le attrezzature più tecnologicamente avanzate di tutta la nave. Eleanor ha messo insieme una biblioteca di ricerca di altissimo livello con una prima edizione completa della serie della vita acquatica. Le avventure acquatiche di Steve Zissou è una raffinata pellicola di Wes Anderson del 2004. Un ricercatore e regista di documentari marini, interpretato da Bill Murray e ispirato alla figura di Jacques Cousteau, ingaggia una spedizione per dare la caccia allo squalo giaguaro che ha divorato il suo migliore amico. Tra umorismo intellettuale, moda colorata in stile anni 70 e animaletti fantastici come compagni di viaggio, fa la sua comparsa nella parte della direttrice della mostra, Anna Koch, una giornalista di moda inglese che con il suo caschetto nero e i suoi cappelli strampalati è diventata un'icona. È la nostra prima protagonista di oggi. Il suo nome è Isabella Blow. Isabella Blow. La moda esagera le cose per renderle più belle. Tutto deve essere condotto al paradosso. La gente comune indossa gli abiti come i modelli del mondo del fashion. L'unica differenza è che nelle riviste di moda sono le luci e il fotografo a creare la magia. Londra, 1958. La capitale inglese è in fermento e tutti i valori di riferimento sono rimessi in discussione. I giovani stanno iniziando la loro rivoluzione contro il conformismo e l'austerità della tradizione, mentre gli angry young men, gli intellettuali arrabbiati, esprimono attraverso le loro opere la rabbia di una generazione cresciuta durante la guerra, che non si riconosce più nella società in cui vive. Isabella Delves Broughton, che più tardi avrebbe approfittato del cognome del marito per diventare Blow, un simbolico soffio, nasce in una buia giornata di fine novembre, con un vento gelido e furioso come soltanto in Inghilterra sa essere. Non fa parte della working class. È la primogenita del militare Sir Evelyn Delves Broughton e dell'avvocato Helen Mary Shore. I soldi di certo risolvono molti problemi, ma non fanno la felicità. In casa, la piccola Izzy, così la chiamano, si ritrova spesso a guardare i litigi dei suoi genitori, che non si curano mai di chiudere la porta durante le loro accese discussioni. L'istinto di protezione, però, la spinge a tenere all'oscuro di tutto le sue sorelle, Giulia e Lavinia, e il fratello John, che in un giorno terribile muore annegato all'età di 2 anni. La morte di John mi ha segnato per tutta la vita. Naturalmente è stato un dolore per tutti. Una ferita che non si è mai rimarginata. Io ho imparato a reagire con la sfacciataggine, ma mi sono sempre portata dietro una malinconia infinita. Isabella è una bambina vivace, ma che alterna momenti di allegria ed espansività ad altri in cui è profondamente malinconica e solitaria. Con le sue sorelle, come succede spesso nelle famiglie al femminile, passa interi pomeriggi a giocare con il guardaroba della mamma, che puntualmente si arrabbia e la sgrida per il disordine lasciato. Cassetti aperti, vestiti sparsi sul letto, scarpe abbandonate vicino allo specchio dopo essere state indossate a turno da piccole donne che non vedono l'ora di crescere. Ma Isabella ha una passione tutta sua, che sono i cappelli. La mamma, fedele a una tradizione inglese che vede la sua massima espressione nella corsa dei cavalli di Ascot, durante la quale le signore portano i copricapi più stravaganti, ne ha molti davvero eccentrici. Ed è un'emozione speciale per Isa provarli e camminarci in giro per la casa. Ho cominciato a portare cappelli prestissimo. Senza, mi sentivo nuda, incompleta. Il cappello è un oggetto sensuale, indossato per sedurre ed essere sedotti, ma anche un modo per proteggere la testa da quell'enorme vampiresco aspirapolvere che è la moda, sempre pronta a succhiar via le idee di menti illuminate. Vestiti della mamma a parte, il precoce incontro di Izzy con la moda avviene per le strade di Londra. Siamo a metà degli anni 60. I colori sgargianti e forme optical invadono la capitale britannica. I giovani anticipano la rivoluzione sessantottina, mettendo in scena una libertà espressiva senza precedenti. Tutto il mondo tiene lo sguardo rivolto verso il Big Ben, da quando il settimanale americano Time, per primo, parla di nuova aria pop in arrivo da oltremanica, che chiama la Swinging London. In una decade dominata dalla gioventù, Londra è in fiore, è swinging, brilla, è lì che succede di tutto. L'antica eleganza e la nuova opulenza si sono fuse nel pop. Il cambio della guardia passa da Buckingham Palace a Lennon e McCartney. Ma Londra non si tiene tutto per sé. Il beat sta invadendo il mondo. Il cuore di ogni cosa è Carnaby Street, nella zona di Regent Street e Piccadilly. È qui, appena dopo l'arco con scritto il nome che segna l'entrata nella via, che John Stephen apre la sua prima boutique, con una vetrina insolita, divertente ed esagerata, che conquista i ragazzi e le star. Mary Quant è la più lungimirante delle stiliste quando inventa la minigonna, pochi centimetri di meno che scoprono le gambe e liberano le ragazze. Elio Fiorucci, che vive in pieno questo momento straordinario, non si stanca mai di raccontare cosa si provava a stare lì. Quando chiunque sbarcasse a Londra in quel periodo, almeno io facevo così, ma sentivo tanti miei amici, tanta gente che veniva da tutto il mondo, lasciavi di corsa la valigia in albergo per scendere subito e correre a vedere cosa c'era di nuovo. Izzy è soltanto una bambina, ma è troppo sveglia per non lasciarsi travolgere da quell'ondata di creatività tutta nuova. Sua nonna, Lady Vera Delves Broughton, una fotografa un po' matta e dallo spirito avventuroso, si fa accompagnare a comprare capi a basso prezzo nei negozietti con le insegne delle tinte pastello. E ogni volta lei resta a bocca aperta. La nonna è la prima a fidarsi del suo gusto e le chiede consigli che ogni volta segue, come si fa con un'amica. Ogni tanto Isabella e le sue sorelle possono scegliersi un regalo. Per Izzy sono sempre soltanto cappelli. Tutto farebbe pensare che il suo destino nello sfavillante mondo della moda sia già scritto. Invece lei, sorprendente come solo chi ha qualcosa di speciale può essere, una sera entra in cucina e dichiara che ha deciso, vuole farsi suora. All'inizio l'esternazione viene liquidata da tutti come un modo per attirare l'attenzione, e forse in parte lo è anche. Fatto sta che lei si mostra nel corso dei mesi sempre più convinta e piano piano convince anche gli altri. Non le interessano più gli abiti, tantomeno i suoi amati cappelli. Non si diverte neanche più a provare i trucchi. Passa le giornate a leggere chiusa nella sua stanza. In casa c'era già stata la tragedia della morte di John e i miei genitori continuavano a litigare. Ho sempre avuto momenti alti e momenti bassi, ma guardando la distanza di anni, credo che quella fosse una vera e propria crisi mistica. Poi, non so come, è passata. È il 1972 quando Sir Evelyn Delves Broughton e l'avvocato Helen Mary Shore, papà e mamma, si separano. Due anni dopo, quando Izzy ne ha 16, divorziano definitivamente e lei, in qualche modo esausta dalle frequenti litigate, tira un sospiro di sollievo, sebbene abbia scoperto che suo padre sta già da tempo con un'altra donna. Nel frattempo ha frequentato il corrispettivo delle nostre scuole elementari e medie e si è diplomata come segretaria. Studiare non le è mai piaciuto granché. Ha sempre preferito leggere libri che le interessavano davvero e che le suggeriva a papà, piuttosto che quelli consigliati dalle insegnanti, magari anche splendidi classici, ma vissuti come obbligatori. D'altra parte, Isabella Blow è fatta così. Se qualcuno prova a dirle cosa fare, immediatamente si indispone. Vuole decidere lei che direzione dare alla sua esistenza, sia per quanto riguarda la quotidianità che per le grandi scelte della vita. E così, dopo aver saltato da un lavoretto all'altro con il solo scopo di raccogliere 4 soldi, tanto per essere indipendente, mette il minimo indispensabile in una valigia e parte alla volta di New York. Ad attenderla c'è la Columbia University. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Originale, divertente, simpatica, con un cuore d'oro e una creatività senza limiti. Questa è al suo arrivo a New York la giovane Isabella Blow. Dopo aver consultato vari opuscoli ed essersi guardata dentro per capire cosa vuole diventare davvero, ha deciso di iscriversi alla Columbia University, facoltà storia dell'arte, indirizzo arte cinese. Trovare un appartamento in affitto non è facile adesso e non era facile allora, ma Izzy incontra per caso, di fronte a una bacheca del cortile universitario, una ragazza che come lei sta cercando qualcuno con cui dividere una casa. Dopo un breve scambio di battute, le due si presentano. La giovane si chiama Catherine Oxenberg, è serba da parte di madre e sogna di diventare un'attrice. Di lì a poco sarebbe diventata la Amanda Carrington del popolare serial televisivo Dynasty. Come hai potuto farlo? Come hai potuto dire in tribunale che io ho mentito? È la verità, no? È il momento della verità per tutti noi. Tu hai affidato la vita di tuo padre nelle mani di quei 12 estranei che possono farlo finire in prigione. Le tue bugie non lo aiuteranno comunque, Fela. Le mie bugie? Da quando tu sei incapace di mentire? Avevi detto che avresti cambiato vita, ma ti sei rimesso con quel tipo. Si chiamava Ted. Che ti aspettavi che facesse tuo padre quando è entrato in camera tua e ha trovato te e quel Ted insieme? Mi aspettavo che almeno per una sola volta nella sua vita mi ascoltasse. Ascoltasse la verità. La convivenza tra le due è serena e di reciproco aiuto. Quando Isabella ha i suoi momenti di malinconia, Catherine le sta sempre accanto e cerca di distrarla portandola con lei in giro per negozi. All'università le cose non vanno altrettanto bene e Izzy, dopo soltanto un anno di corso, decide di lasciar perdere per cominciare a lavorare, rimanendo comunque nel mondo dell'arte. Si trasferisce in Texas e collabora per qualche settimana con lo stilista Guy LaRoche. Poco dopo incontra quello che diventerà il suo primo marito, Nicholas Taylor. L'idillio è destinato a durare solo 2 anni, ma l'inizio è sfavillante. Quando lui le domanda durante una cena romantica perché indossi sempre quei cappelli stravaganti, lei risponde nello stesso modo con cui risponderà ai giornalisti incuriositi dal suo look. Io indosso i miei cappelli per tenere chiunque lontano da me. La gente dice: posso baciarti? E io rispondo: no, grazie mille. Questo è il motivo per cui metto il cappello. Arrivederci. Non voglio essere baciata da chiunque, ma solo dalle persone che amo. Per Isabella, come per tutti quelli che ci vivono negli anni Ottanta, è impossibile stare lontani da New York. E questo, il centro del mondo, la città che non dorme mai, dove succede di tutto. La scena delle avanguardie è ricca come non lo è mai stata e lei stessa frequenta abitualmente Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Jean-Michel Basquiat. Le serate sono interminabili. Cominciano nei locali e finiscono per strada, tra droga, fiumi di alcol e una vivacissima scena rock a fare da colonna sonora. Tutte le tendenze partono da qui, si tratti di musica, arte o moda, e le cose spesso si mescolano perché ci si incontra negli stessi posti. In una gara in cui ognuno vuole apparire il più possibile eccentrico, Izzy vince sempre. E la cosa sorprendente è che a lei viene naturale scegliere quella particolare gonna, abbinarla a una giacca maschile, coordinarla con l'immancabile cappello ingombrante. Con il suo naso pronunciato, il volto e l'incarnato pallidissimi, gli occhi resi esagerati da una cornice di glitter celeste e sulla bocca un rossetto rosso fuoco, mai preciso, sempre un po' sbavato, incontra un giorno la temibile Anna Wintour. Isabella Blow non è per niente grassa, ma di certo è molto sveglia. Dopo una lunga chiacchierata, nonostante le remore che ha nei confronti di chiunque, Anna Wintour decide di assumerla come sua assistente. Lei, neanche a dirlo, non crede alle sue orecchie. Sa benissimo che tutto il mondo in un modo o nell'altro si veste come lei decide si debba vestire e sa anche quanto l'incarico possa essere un trampolino di lancio per lei, che della moda ha già una personalissima opinione. Moda è vita, è una cosa vampiresca che consuma, è un aspirapolvere nel cervello. Questo è il motivo per cui indosso i miei cappelli. Considero il fashion un modo per esprimere se stessi, per essere creativi. Per la mia vita e la professione trovo l'ispirazione nella gente, nelle persone che amo. È tutto all'interno delle persone che amo. Soprattutto una. Tra poco, a Destini Incrociati. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it and makes you count. She holds you captivated in a pound. Suddenly I A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni Ottanta e una stravagante ragazza inglese che non esce di casa senza cappello è appena approdata nella redazione newyorkese di Vogue America. Si chiama Isabella Blow e l'ha assunta la terribile direttrice Anna Wintour come sua assistente. Creativa, ma mai snob, buona e incredibilmente generosa, non si sente a suo agio nell'ambiente freddo e disumano della redazione della rivista più importante al mondo. E così, dopo essersi mantenuta per alcuni mesi con lavoretti saltuari, decide di ritornare nella sua amata Londra, dove diventa assistente di Michael Roberts, fashion director della rivista Tatler e del Sunday Times. Dichiara agli amici che non disegnerà mai una collezione perché non si sente stilista, ma arbiter del gusto. E presto il destino le dà ragione, facendola diventare style editor presso il Tatler. Con la sezione moda affidata a lei, tutti si rendono conto che la sua più grande abilità è quella di individuare e fare esplodere nuovi artisti. Un vero talento è un genio che non pensa al denaro, vuole soltanto creare, ha bisogno di farlo. Deve far uscire dal corpo la propria creatura, è come partorire un bambino. Vuole far uscire il bambino, vuole avere l'opera a qualsiasi costo. Questo per me è un vero talento. Un bravo professionista appartiene al mondo del business, è sempre istruito dagli altri su quello che deve fare. Si può essere professionisti e ricchi di talento, ma questa è un'altra cosa. Bisogna avere prima di tutto il talento. Il primo che scopre si chiama Philip Tracy. È il 1989 e Izzy si sta per sposare per la seconda volta con Detmar Blow, l'uomo da cui prenderà il cognome. Un giorno le arriva sulla scrivania un cappello in feltro verde acido che rappresenta la testa di un coccodrillo e lei non ci pensa due volte. Sarà il designer che gliel'ha mandato, Tracy, a realizzare il cappello per il suo matrimonio. 13 anni dopo, nel 2002, tutti i cappelli creati per lei da Tracy avrebbero costituito una grande mostra presso il London Design Museum, accompagnata dal volume When Philip Met Isabella, con fotografie, disegni che rappresentano la musa mentre indossa le creazioni più eccentriche. Per esempio, il cappello aragosta omaggio a Salvador Dalí, quello parlante che si muove ogni volta che Izzy parla, o ancora quello creato per il funerale di Simon Fraser, suo cugino, realizzato con un centinaio di veli con lo scopo di asciugare le lacrime, o il cappello fagiano che riproduce il movimento delle piume. Le opere d'arte di Philip Tracy ormai sono sulla testa di tutte, da Victoria Beckham a Lady Gaga, dalle invitate al Royal Wedding di Kate e William a Sarah Jessica Parker, la Carrie che detta moda in Sex and the City. Izzy, il vero amore, l'ha trovato in Blow e lui ama ripetere che le ha rapito il cuore mentre la testa preferisce dedicarla ai suoi pupilli. Non bisogna lasciarsi ingannare dal lavoro che fa. Nonostante sia quotidianamente in contatto con le grandi personalità della moda e dello spettacolo, è sempre squattrinata. Non perché abbia le mani bucate, ma per colpa, si fa per dire, della sua generosità che la spinge a investire tutti i suoi soldi sulle persone in cui crede davvero. Come quando si presenta alla sfilata di fine anno di un rinomato istituto d'arte di Londra. 1992. Central St. Martin's College. Nella sala adibita agli spettacoli, giornalisti e invitati prestigiosi sono già seduti e aspettano con ansia di vedere cosa hanno prodotto gli studenti di quell'anno accademico. Isabella Blow è l'ospite più importante. Tutti sanno quanto conti il suo parere nel mondo del fashion. Un giovane designer ha preparato un'intera collezione in cui crede moltissimo, con un cappotto che fa da punta di diamante. Quando esce, indosso a una modella magrissima che attraversa la passerella con lunghe falcate, Izzy, distinto, scoppia nel più spontaneo degli applausi, tirandosi dietro tutto il pubblico. Mezz'ora dopo è già dietro le quinte. Ha trovato il suo nuovo talento. Si chiama Alexander McQueen. Alexander McQueen. Di solito, chi decide di cambiare il suo nome sceglie qualcosa di più corto o originale di quello che ha già. Non è così per Lee McQueen, che il 17 marzo del 1969 viene registrato così all'anagrafe, ma presto comincia a farsi chiamare Alexander. Siamo nella capitale inglese, quartiere popolare dell'East London. Oggi qui sta per sorgere il villaggio olimpico delle Olimpiadi del 2012 ed è una delle zone più cool. Locali, ristoranti, mercati e una ricca scena musicale creativa. Ma fino a pochi anni fa, Brick Lane, la via che la attraversa, era associata più che altro a bassi fondi e ai delitti di Jack lo Squartatore. Negli anni 70, quando McQueen è un ragazzino, è soltanto una triste periferia dove, per via degli affitti bassi, vivono per lo più immigrati mediorientali e asiatici. Anche la sua famiglia è modesta e papà, per sfamare i suoi 6 figli, fa il tassista 16 ore al giorno. Io ero l'ultimo di 6 figli. In casa c'era il minimo indispensabile, tutti ci davamo da fare e non c'era spazio per i capricci. I miei amici venivano dall'India e dal Bangladesh, ma non c'erano mai stati. Erano nati e cresciuti a Londra. Papà lo vedevo pochissimo perché lavorava sempre. Invece mia madre è sempre stata la persona più importante della mia vita. A 16 anni, Alexander, responsabile e senza troppi grilli per la testa, decide che è arrivato il momento di lasciare la scuola e di andare a lavorare. Incomincia a respirare aria di moda nelle sartorie di Savile Row, dove per la prima volta prende in mano spilli, matita, ago e filo. A volte, quando ancora non si conosce la propria strada, è il destino a suggerirla. Ed è così che il futuro designer approda da Gives & Hawkes, dove scopre i piccoli segreti dell'alta sartoria maschile, per poi spostarsi nello studio teatrale di Angels & Bermonds, nel quale si immerge con tutto se stesso nel cuore della sartoria femminile. È qui che impara i 6 tagli principali di un modello del XVI secolo e tutto quello che gli serve per spiccare il volo. Occhi azzurri, sguardo malinconico, barba curata e orecchino come unico vezzo, McQueen è già troppo bravo per lasciarselo scappare. Anche il designer Cosi Tatsuno lo chiama a lavorare con sé e dopo pochi mesi è in Italia, a Milano, presso la maison di Romeo Gigli. Ha 20 anni, pochissimi se si conta l'esperienza che ha maturato sul campo, e decide, seguendo i consigli di sua madre, che gli serve anche una formazione teorica. Mia madre Joyce mi ha suggerito di riprendere gli studi, sempre nel campo della moda. Mi ha detto che senza una preparazione adeguata non sarei mai riuscito ad avere un vero successo duraturo, e io come sempre le ho dato ascolto. Mia madre era il mio riferimento. Ho sempre avuto questo pensiero oscuro, fin da piccolo, che non avrei mai potuto morire dopo di lei. Alexander McQueen torna a Londra e si iscrive al Master del Central St. Martin's College, importante istituto per le arti e il design che nel corso degli anni ha sfornato alcuni dei più grandi talenti contemporanei nell'ambito di svariate discipline legate alla creatività. Rispetto agli altri, ha una marcia in più, quella dell'esperienza sul campo. Al contrario dei suoi compagni, invece, non ha la possibilità di prendersi tutto il tempo che gli serve. Deve dare del suo meglio senza concessioni, perché deve tornare a lavorare in fretta. E così, con la sfilata di fine anno, nel 1992, si gioca il tutto e per tutto. In prima fila, naturalmente con uno dei suoi immancabili e stravaganti cappellini, è seduta la talent scout, stylist e consulente di moda Isabella Blow. Nell'ambiente le idee girano in fretta e ha già sentito parlare di quel ragazzo poco più giovane di lei. Quando sfila la sua collezione ne è folgorata e dopo mezz'ora è già dietro le quinte a parlargli. Lui tenta di venderle il cappotto punta di diamante della sua produzione per 350 sterline. Lei rifiuta, ma soltanto perché per lui ha già in mente tutt'altra proposta. Ho scoperto personaggi come Philip Tracy e Alexander McQueen perché ogni volta leggo nei loro occhi qualcosa di speciale. La bellezza è la chiave, è quello che hanno in comune. Tutti creano qualcosa di meraviglioso, qualcosa che colpisce. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Londra, nel 1992, e una stravagante editor di moda, Isabella Blow, ha appena scoperto un talento. Lui si chiama Alexander McQueen. È cresciuto in una famiglia modesta e numerosa nella periferia della capitale inglese e a 16 anni ha smesso di studiare per imparare il mestiere di sarto presso alcune maison, finché su consiglio di sua madre Joyce ha deciso di completare la sua formazione al master del prestigioso Central St. Martin's College. Alla sfilata di fine anno, la sua collezione ha conquistato la Blow, che è andata immediatamente a contattarlo. Non appena le ho parlato, ho visto nei suoi occhi la mia stessa malinconia. Ho sentito che quella donna dall'aspetto eccentrico, con i lineamenti marcati, nascondeva una profonda tristezza. Ho subito pensato che avremmo potuto diventare amici. Succede davvero, nel corso dei mesi. I due cominciano a frequentarsi sempre più assiduamente, diventano inseparabili, uniti come un fratello e una sorella. McQueen, dopo la sua sfilata, tenta di venderle un cappotto per 350 sterline e lei rifiuta, proponendogli invece di venderle tutta la collezione. Non che i soldi non siano un problema, al contrario. Easy, una specie di Peggy Guggenheim della moda, è sempre stata così generosa con chiunque da non riuscire a mettere da parte un centesimo. Tanto che a Alexander propone di pagargli un totale di 5.000 sterline diviso in rate da 100 sterline alla settimana. Lui naturalmente accetta. È l'inizio della sua strabiliante carriera. L'hooligan dell'alta moda. Così iniziano a chiamarlo tutti per via del suo stile trasgressivo, decisamente poco bon ton. Il suo gusto è legato a un immaginario gotico, al concetto di morte e all'idea del lato oscuro che vive in ciascuno di noi. Si ispira, oltre alla sua musa, alle vicende di Jack lo Squartatore, il cui fantasma aleggiava nei vicoli dell'East London, luoghi della sua infanzia, e ad artisti controversi come Damien Hirst e Marina Abramovic. Oltre a un'estetica punk, non mancano i riferimenti a Rinascimento ed età vittoriana, e tutte le sue sfilate sono sempre un grande e spettacolare happening, con modelle che camminano in un cubo di vetro, sull'acqua, sotto la pioggia, in un circo e perfino in una sinagoga sconsacrata. Le sue performance rappresentano il mondo che cambia tra rabbia, simbolismo, estrema bellezza e anarchia concettuale. Sì, sono aggressive, parlano di disastri, guerre, morte, rovine. Sono esattamente come i tempi che viviamo. Possono anche essere romantiche, come i tempi che non riusciamo più a vivere. Ma sempre e ogni volta per le mie presentazioni è come se dovessi uscire da un buco nero per mostrare il lato positivo. Provengo dalla classe operaia. Ora sono circondato dal benessere. Le classi sono meno divise o forse invece sono drammaticamente separate. Bisogna fare attenzione a non perdere il senso della realtà e a tenere i piedi ben saldi a terra. In India ho visto un'armonia, un rispetto e perfino una capacità di felicità fra i poveri che non avrei creduto potesse esistere. Nel 1996 Alexander McQueen diventa direttore creativo di Givenchy, subentrando a John Galliano, e vi rimane per 5 anni, dimostrando di essere capace di unire lo stile tradizionale francese con l'eccentricità inglese e l'artigianalità italiana. Nel frattempo disegna la sua linea, seguendo i consigli della sua adorata amica Isabella Blow, finché decide di comprare il 51% del marchio Gucci, senza coinvolgerla. Scoprire un talento non è facile. È come avere una famiglia. Si può essere molto soli. Prima lo trovi e poi lo curi, proprio come una madre con un figlio. Dopo poco scappa di casa così fottutamente veloce che lo hai perso definitivamente e rimane abbandonata. Isabella continua a sedere in prima fila alle sfilate di Londra, Milano, Parigi e New York, sempre abbigliata in modi stravaganti, come la volta in cui si presenta con un abito ispirato a Giovanna d'Arco e si trascina una pesante catena. Forse la catena è un simbolo della pesantezza dell'anima che è costretta a portarsi dietro. Scopre di essere sterile, i problemi economici incombono e le vengono diagnosticati quasi contemporaneamente disturbo bipolare e un cancro. È il 2007 e dopo ripetuti tentativi di suicidio, Izzy muore avvelenata dal diserbante a Gloucester, nel sud-ovest dell'Inghilterra. McQueen è distrutto dal dolore e le rende omaggio come lei avrebbe voluto, con una struggente collezione. Non vi sarà un'altra Isabella, mai più. Era più di una sorella. La nostra intesa veniva alimentata da una malinconia a volte connessa alla superficialità del nostro ambiente. Lei aveva la pelle fragile. Io invece ho la pelle dura. Non è così. Dopo la morte di Izzy, una terribile depressione si impossessa di lui. E a nulla servono premi, riconoscimenti, successo. È un uomo distrutto. Gli scenari delle sue sfilate cominciano a essere un'allucinazione sempre più reale. L'incubo si concretizza giorno dopo giorno. Finisce il suo rapporto sentimentale con George Forsythe e perde anche sua madre, Joyce. La costante malinconia che condivideva con Izzy si fa dolore sempre più intenso, finché decide di mettere fine a una vita molto emozionante, ma poco felice. L'11 febbraio 2010, poco prima di compiere 41 anni, viene trovato morto nella sua casa di Green Street. Isabella Blow e Alexander McQueen, due artisti visionari con un'anima troppo sensibile per adattarsi alla crudeltà del mondo. Perché in fondo la moda è così, divertente e complicata, leggera e dolorosa, proprio come la vita. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.